Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. Amici di Resto Radio Convento, benvenuti di nuovo. Master Nick in onda, non sono solo perché sono in compagnia di un ragazzo e dei suoi amici che questa sera sono davvero, come dire, intanto elettrizzati per la serata, ma soprattutto stanno festeggiando un qualcosa di veramente importante. Allora vai, presentati. Allora, sono Matteo, vengo da Guizzolo, oggi è il mio compleanno, faccio 18 anni, quindi sono maggiorenne. Oh, 18 anni, che bello, che bello, che bello, fantastico. Allora, Matteo, l'abbiamo sentito ad inizio serata, insomma, quando sono arrivati loro, e gli abbiamo chiesto tra una cosa e l'altra quali fossero i suoi desideri per questo 18esimo compleanno, o meglio, da 18enne, perché lo dicevamo all'inizio, i 18 anni sono l'età dei sogni, delle speranze, dei desideri, e lui mi ha detto viaggiare come primo, giusto? Esatto. E allora adesso ti chiedo anche dove, cioè se hai dei posti in testa. Allora, viaggiare direi o in Australia o negli Stati Uniti. Insomma, non dietro l'angolo. No, no, assolutamente. Ma viaggio di, come dire, di piacere o tipo Erasmus, una esperienza? Assolutamente di piacere con i miei amici. Ah, ok, quindi di piacere. Però quindi non penseresti a un'esperienza all'estero per un po' di mesi? Allora, ho già provato una settimana a scambio culturale con la scuola a Berlino e diciamo che mi è piaciuto molto. Però diciamo che viaggiare con i miei amici è una cosa che non capisco. Direi di sì. E la seconda che mi ha detto è stata trovare un amore, insomma una ragazza, giusto? Una ragazza giusta per me. Giusta per lui. Giusta per me. Quindi va da sé che non ti chiedo se sei impegnato single, perché la risposta è scontata, ma ti chiedo a questo punto l'identikit di questa ragazza giusta per te. Dacci qualche elemento. Allora, se ce l'hai già in testa. Allora, che deve prendermi. È inutile che fai quella faccia, non sei tu la ragazza giusta per lui. Lui ti ha guardato come per dire scegli me, descrivimi, invece no, non è lui. Appunto, però cioè, mettiamo le mani avanti subito, non illudiamolo. Oh, bello, come, bellissimo. Come ragazza deve avere un carattere che sa prendermi. Sì. Poi per il resto il carattere cosa? Sa prendermi. Sa conquistarlo, sa conquistarlo, sì. Tipo lei? Tipo lei. Lei è molto bella. Lei è molto bella, molto bella. Dopo vado a salutarla. Sì, poi andiamo a salutarla, certo. Poi per il resto, oltre a che sappia prendermi, anche che abbia un fisico abbastanza. Perché? Atletico, ok, perché ci sta. Ci vuole un fisico bestiale. Bravo, per reggere agli urti della vita. Esatto. Ci vuole un fisico. Per me è molto importante il carattere rispetto all'aspetto. No, certo. Quindi bene, vedi, un ragazzo con le idee chiare. Esatto. Allora, festeggiato i 18 anni, l'hai detto, hai sottolineato anche l'importanza di aver vicino i tuoi amici. Quindi chi c'è qui con te? Dici allora, un po'. Qua la mia destra è Molly Sinistra. Stringa. Compiendo 18 anni ha avuto un po' di problemi nel ricordare dove è la destra. Davvero? Esatto, sta cucinando molto bene. E allora ha trovato la sua strada? Nicolò che ha fatto barista, diciamo, cioè sei uscito come barista. No, ricevimento. Sala, ok. Però molto più verso lo sport, che lui segue molto di sport. Ah, ok, quindi è un atleta, uno sportivo. Tutte le capitali del mondo. Tutte. Davvero? Una lo so. Beh, ma io non, ma io non le so, quindi non so se. Non so, la capitale del Madagascar. Qual è la capitale del Madagascar? Antananarivo. Ah, Guantanamera? No, adesso vado a controllare. Vabbè, ci manca, scusa, bisogna. Eccola qua. No, bisogna certificare. Antananarivo. Chiedi un altro. Non lo so, vai, ditele a voi. Io so, vi faccio il notaio. La capitale della Nuova Zelanda. No, cos'è? Wellington, grande. Adesso tutti. Oh, forte. La capitale è Sudan. Sudan, quella è proprio difficile, Quella è la ricordo. Ah, no. Khartoum. Khartoum. Vabbè, non è che può beccarle tutte, però ho preparato, vedi, che i giovani d'oggi non sono tutti social e serie TV. Hanno poi l'ultimo, diciamo che è il mio migliore amico. Sì, quello che ci prova prima con te. Esatto. Diciamo che. O meglio, forse che ci sperava ci provassi con lui, è diverso. Esatto. Ma dopo che ho iniziato a iniziare A sentirmi con la tipa. Ok, perché sei impallato un attimo. Un po' perso. Sì. Però un grande giocatore di calcio. Sì. Giocando lo Sporting, fa il terzino. Destro. È preparato, vedi. Sì, dovrei essere un esterno alto, però. Ok. Riadattato. Per giocare si fa quel che si può. Poi diciamo che è il più bello della famiglia. Ah, della compagnia, il bello della compagnia. Quello che prende più le ragazze. Quello che usate come tipo fanteria, lo mandate in avanscoperta, mandate avanti lui. Esatto. Così lui lui spiana la strada e poi voi arrivate a rovinare tutta la scena, no? Ok, vuoi mandare un messaggio? Vuoi dire qualcosa? Ah, voglio ringraziare tutti, soprattutto i miei genitori che mi hanno messo al mondo 18 anni fa. Che... Beh, giusto, bisogna partire da lì, giusto? Fa, parole forti? Di più. Sì, beh, non troppo di più, 18 e 9 mesi. 9 mesi. Esatto. Fa. No, non 9 mesi 18 fa. 18 anni e 9 mesi. Mi sta un po' in confusione con i tempi. Sì, esatto. Ci sta. E diciamo che sono stati bravi perché comunque sono cresciuto molto, ho imparato molto da loro, ho imparato anche molto dai miei amici. Bravo. Perché ho iniziato a seguire 3 anni fa, 4, diciamo da uno superiore. Sì. E diciamo che ho imparato molto da loro, come amicizia, come comportamento. E sono molto fiero di avere loro come migliori amici. No, senti che bella dichiarazione. Questo ragazzo, quando troverà la donna giusta, saprà come parlarle. Perché vedi, se parla così ai suoi amici, siamo sicuri che con la persona giusta sarà in grado di darle i messaggi che serve dare. Ragazzi, voi volete dire qualcosa al vostro neo diciottenne? Il migliore. Una parola, il migliore. Vabbè, guarda, non ne servono molte a volte. Adesso ho scroccato i passaggi da noi, che siamo più grandi, adesso ho toccato. Li tornano tutti indietro. Esatto. Ci sta. Vabbè, di solito li porto in giro io. Però adesso. Non penso che la patente, così, ma va bene. Ci sta, adesso deve restituire tutto quello di cui si è approfittato in questi mesi. Va bene, allora grazie mille ragazzi e soprattutto ancora tantissimi auguri al nostro neo diciottenne che adesso è entrato veramente nel mondo dei grandi. Auguri Matteo, grazie, e a presto, ciao! Ciao, grazie.